EU Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Mara. Cognome: Bizzotto. Età: 43 anni. Nata: Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Eletta in: Collegio Nord-Est. Con quanti voti? Oltre 45.000. Partito politico: Lega Nord. Gruppo politico: ENF, Europa delle Nazioni e delle Libertà. Segni particolari: orgogliosamente veneta e milanista. Quante lingue parla? 3. Competenze europee in 10 parole: lavoro, imprese, tutela del made in e del nostro agroalimentare, lotta all'immigrazione clandestina, Europa dei popoli, abolizione del canone RAI. Benvenuta nella EU Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. L'Austria, al pari di altri paesi europei, decide di chiudere le frontiere all'arrivo di nuovi immigrati. Colpa dell'Europa, dice. I singoli stati non stanno facendo ancora meno? Fa sicuramente bene l'Austria a chiudere le frontiere e a sospendere Schengen. Quindi quale tipo di gestione suggerisce? Beh, basterebbe copiare il modello della civilissima Australia, dove non entra nessun immigrato irregolare. Le leggi sono chiare, rigorose e vengono fatte rispettare da qualunque governo, sia di destra che di sinistra. In Commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento Europeo si sta discutendo sui fondi europei riservati ai disoccupati per dirottarli ai migranti. Qual è l'esito? Purtroppo è andata male, perché una parte importante dei soldi destinati ai nostri disoccupati finirà invece agli extracomunitari. In Europa ci sono 25 milioni di disoccupati, in Italia più di 3 milioni, soprattutto giovani. Vogliamo pensare ai nostri disoccupati e non sempre agli ultimi arrivati? Qualche giorno fa è stata al centro della polemica sul pomodoro San Marzano. Per la Commissione si può coltivare ovunque. Lobby contro coltivatori locali? Ogni anno il falso made in Italia fa perdere al nostro paese 60 miliardi di euro. Contro la cooperativa e la contraffazione servono normative chiare e severe. Faccia a faccia con Juncker per 30 secondi di libertà di parola. Gli chiederei di dire la verità, tutta la verità, sullo scandalo che nel 2013 lo ha costretto a dimettersi da premier del Lussemburgo. E poi dovrebbe spiegarmi perché il suo Lussemburgo ha concesso accordi fiscali scandalosi a centinaia di multinazionali per non pagare le tasse. A cena con la Le Pen o George Clooney? Beh, insomma, con George Clooney, e credo che sia chiaro anche il perché. È stata il migliore europarlamentare italiano per numero di attività e produttività per 3 anni di fila. È Wonder Woman o è fattibile? Beh, quando ami la tua terra e conosci i problemi della tua gente, trovi l'energia, hai la passione, la forza che serve per combattere e non mollare. Mai. Come spiegherebbe l'Europa ad un bambino? Al bambino direi: l'Unione Europea è quella istituzione che decide anche cosa dobbiamo mangiare. Lo sai che qualche anno fa l'Europa voleva proibire la vendita della Nutella? E oggi l'Europa vorrebbe farci mangiare insetti, cavallette e larve. Beh, sono sicura che il bambino direbbe: beh, che schifo questa Europa! EU Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.